Pagine per il futuro. Bentrovati all'ultimo appuntamento di Pagine per il futuro, il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che per tutta l'estate vi ha proposto in riduzione radiofonica un classico della letteratura, drammatizzato da attori del piccolo e commentato da ospiti di volta in volta invitati dal mondo della cultura, della politica e dell'economia. Per quest'ultima puntata l'ospite è Domenico Siniscalco, ex ministro economico tra il 2004 e il 2005 e oggi country head di Morgan Stanley per l'Italia. Male bene è la coppia di sentimenti che Siniscalco ha scelto di commentare attraverso le pagine del romanzo di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, nella lettura dell'attore Sergio Leone. Completa esposizione del caso da parte di Henry Jekyll. Sono nato nel 1800... Erede di una vasta fortuna, dotato inoltre di eccellenti qualità, portato per natura all'operosità, geloso del rispetto delle persone sagge e buone fra i miei simili. Il mio peggior difetto era una certa qual impaziente vivacità di temperamento, che io trovavo difficile conciliare con il mio imperioso desiderio di avere agli occhi della gente un'aria contegnosa oltre ogni dire. Questo è il motivo per cui tenni poi nascosti i miei piaceri. E quando raggiunsi l'età della riflessione, mi trovai già coinvolto in una profonda duplicità di vita. Così, di giorno in giorno, sempre più mi avvicinavo a quella verità, la cui parziale scoperta mi ha condannato a un così orribile naufragio, che l'uomo non è uno, in verità, ma due. E fin dagli inizi, prima ancora che il corso delle mie scoperte scientifiche avesse cominciato a suggerirmi la più concreta possibilità di un simile miracolo, avevo imparato a vagheggiare l'idea della separazione di quegli elementi. Se ciascuno di essi, mi dicevo, potesse solo essere collocato in identità separate, la vita sarebbe alleviata di tutto quanto ad insopportabile. Il malvagio se ne andrebbe per la sua strada, liberato dalle aspirazioni e dai rimorsi del gemello più virtuoso, e il giusto potrebbe progredire con costanza e sicurezza lungo il suo sentiero in salita, non più esposto all'ignominia a causa di quel male che gli è estraneo. Era la maledizione del genere umano che simili incongrui sviluppi fossero tanto vincolati, che nel grembo tormentato della coscienza quei gemelli antitetici dovessero scontrarsi continuamente. Come fare dunque a dissociarli? Ero a questo punto delle mie riflessioni quando una nuova luce venne a investire sull'argomento dal tavolo di laboratorio. Cominciai a percepire la flebile inconsistenza di questo corpo all'apparenza così solido nel cui rivestimento ci muoviamo. Trovai che certi agenti avevano il potere di spogliare questo paramento carnale, come una raffica di vento può strappare le tende di un padiglione. Comprai subito una forte quantità di un sale speciale che sapevo essere l'ultimo ingrediente richiesto. E una notte esecranda, a tarda ora, combinai gli elementi. Li guardai ribollire e fumare mischiati nel bicchiere. E una volta finita l'ebollizione, con una fiammata di coraggio, trangugiai la pozione. Domenico Siniscalco, professore universitario torinese, allievo di Franco Reviglio, o dei Reviglio Boys, eravate chiamati, collaboratore a lungo del Sole 24 Ore, abbiamo collaborato insieme, era un editorialista tra i primi negli anni 90, fino a quando poi ha deciso di mettersi, ma non tanto in politica, perché poi ha fatto il ministro, ma ha fatto il ministro tecnico dopo essere stato direttore generale del Tesoro, ed ora è ai vertici di Morgan Stanley, una delle principali banche d'affari mondiali. Allora, dottor Jekyll o Mr. Hyde, perché questa scelta, Siniscalco? Ma io ho accettato con entusiasmo questo invito a parlare di un libro che fosse insieme polarità e analogia, polarità tra le due parole chiave, bene e male in questo caso, e analogia un po' coi fatti della vita e coi fatti di tutti i giorni. Questo è un libro che io ho amato moltissimo fin da quando l'avevo letto al liceo, avrò letto almeno 3 o 4 volte, complice anche l'agilità della lettura. È fatto di due parti. Nella prima parte sembra un giallo in cui da molti indizi si inizia a capire che qualcosa di strano sta succedendo a Londra intorno a Chesterton Square e si comincia a capire che un orrendo individuo violento che circola per la città ha qualcosa a che fare col rispettabilissimo dottor Jekyll. Ma ci vuole un bel po' di pagine perché questo giallo a un certo punto faccia vedere che le due figure convergono attraverso la scrittura e così via. Quindi libro avvincente. Poi invece nell'ultima parte, che è quella che Sergio Leone ha iniziato a leggerci, attraverso il testamento che Jekyll, ormai morto, scrive per il suo amico dottor Utterson, diventa una disamina del problema più profondo, che è quello morale della non separabilità del bene e dal male. Io sono convinto che non siano separabili, sono convinto che non ci siano né angeli né demoni, come lo stesso Jekyll scrive, ma anche Nietzsche diceva, non è un'idea originale. È molto interessante qui il fatto che la necessaria convivenza tra il bene e il male, che viene spezzata, l'abbiamo sentito in questa prima parte della lettura, da questa pozione che lo stesso Jekyll ha costruito, alla fine diventa impossibile e il tentativo di separare dal bene e dal male alla fine fa sì che la parte cattiva, Hyde, si mangi. Il fatto che il bene e il male sì, convivono nella stessa persona, ma hanno due rappresentazioni diverse. La stessa persona diventa due persone diverse, mentre nella vita normale il bene e il male convivono nella stessa persona e noi non cambiamo volto, atteggiamento, sguardo quando pensiamo bene o pensiamo male. Intanto è molto divertente, leggendo il libro, vedere che Jekyll ha una sorta di ammirazione per Hyde, più agile, più veloce, più, anche se abbastanza poi ripugnante nei tratti fisici, ma lui ha quasi invidia per la... È l'attrazione del male. E certamente, no? Ma è una profonda metafora, secondo me, dei tempi che stiamo vivendo. Perché nei tempi che stiamo vivendo c'è questa tentazione di separare il bene dal male. Sì, magari anche in campo economico di dire l'economia reale è il bene, la finanza è il male, la finanza è lo strumento del diavolo, l'economia è quello che produce ricchezza, questa divisione. Sì, questo è un caso. Sicuramente 10 anni fa sarebbe stato il contrario, no? La finanza era brillante, l'economia reale era pesante. Però la cosa ancora più interessante è che oggi si tende a separare i paesi virtuosi dai paesi che non lo sono, i paesi in credito dai paesi in debito. Guardate che sono due facce della stessa cosa, è assolutamente impossibile separarli. La Germania, per fare un esempio casuale, non sarebbe quel che è se non ci fossero i paesi che importano e sono in deficit. Quando si dividono le banche, le bad bank e le good bank, l'avete sentito dire, cioè con l'idea di buttare tutte le cose che non vanno in un pezzo e tenere fuori il buono, beh, la bad bank poi cresce, si gonfia, alla fine magari rischia di mangiarsi tutto quanto. Sono effettivamente metafore della realtà, da cui io credo la lezione del dottor Jekyll e Mr. Hyde, che si riscontra in tutte le cose, è quella che conviene tenerli insieme, questi spicchi di realtà. È un'illusione quella di separare il male dal bene, perché poi il male si vendica e mangia il bene. Ma poi anche il male in fondo aiuta a riconoscere il bene, perché non ci può essere tutto bene fin dal peccato originale, senza andare molto in là, ma il male in fondo è funzionale al fatto che si possa superare il male, riconoscerlo e fare anche da parte di ciascuno quell'esame di coscienza necessario per capire dov'è il bene e dov'è il male, che è una battaglia infinita peraltro. Ma difatti Jekyll non è simpatico, perché cercando di fare questa operazione alla fine non gli riesce, e non gli riesce bene, e lui stesso tutte le volte che cerca di dire non lo faccio più, poi ci ricasca inesorabilmente, perché appunto la realtà è fatta sempre delle due cose, non ci sono, cioè i numeri pari e dispari, luce, ombra, queste cose là sono una finzione, ma è una categoria. Quella notte ero arrivato al fatale crocevia. Se mi fossi accostato alla mia scoperta con spirito più nobile, se avessi rischiato l'esperimento guidato da aspirazioni generose e pie, tutto sarebbe stato diverso. E da quei tormenti di morte e di nascita sarei uscito come un angelo invece di un demonio. Ma a quel tempo la mia virtù sonnecchiava, mentre il male in me, tenuto sveglio dall'ambizione, era allerta, e dalla cosa prese corpo Edward Hyde. A quel tempo, del resto, non avevo ancora dominato la mia avversione per l'aridità di una vita di studio. A volte ero ancora portato a cercare svago, e dato che i miei piaceri erano, a dir poco, indecorosi, nelle mani di Edward Hyde fecero presto a degenerare nel mostruoso. A ritorno da quelle scorribande mi ritrovavo spesso immerso in una specie di stupore di fronte alla mia depravazione, per così dire, vicaria. Quest'intimo compagno era una creatura intrinsecamente iniqua. Si inebriava di piacere, con bestiale avidità, nell'infliggere ogni sorta di tormenti. Harry Jekyll restava a volte esterrefatto davanti agli atti di Edward Hyde, ma la situazione era fuori da ogni norma, e così, insidiosamente, ridusse il controllo esercitato dalla coscienza. In fin dei conti era Hyde, e Hyde soltanto, il colpevole. Pagine per il futuro. Continuiamo nell'ascolto dell'incontro organizzato da Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano, con la partecipazione di Domenico Siniscalco. Bene e male sono le due facce inscindibili di ogni essere umano, eppure il dottor Jekyll ha trovato il modo di separarle. Credo, se vogliamo andare in fondo sulla metafora Jekyll e Hyde, che molte delle disfunzioni della finanza che sono avvenute in questi anni, quelle più eclatanti dal 2008, ma c'era stato il caso della Enron nel 2001, c'erano state infinite disfunzioni del genere, siano anche figlie di una superiore e ingiustificata fiducia nella regolamentazione. Io in quegli anni lì, dal 2001 al 2005, ho avuto la fortuna di stare seduto al tavolo del G7 dei ministri dell'economia, dove c'era Greenspan, il famoso banchiere centrale. L'idea in quegli anni è che quando si presentava uno shock di vario tipo alle economie, la risposta di politica economica, appunto separando dove si poteva separare il bene e il male, correggendo, influenzando, potesse raddrizzare la situazione. Non è stato vero. E se volete, il grande insegnamento della crisi è proprio quello che non c'è una ricetta, bisogna navigare queste acque agitate e venirne fuori. Quindi, secondo me, la crisi alla fine è anche la punizione o la conseguenza negativa in attesa del tentativo di dominio su questi fenomeni complessi. Ma tornando alla liquidità, non c'è troppa fiducia sul fatto che l'economia la faccia il denaro e non la facciano invece le persone? No, non credo che ci creda più nessuno. Credo che tutti abbiamo capito che l'economia è fatta di lavoro, di prodotti, di progresso. Dobbiamo anche tornare a capire che sicuramente lavoro, progresso, eccetera, hanno bisogno di moneta, perché vuol dire cassa in anticipo, perché vuol dire possibilità di crescere. Probabilmente quello che emergerà da questa crisi è che dobbiamo di nuovo tenere insieme i diversi spicchi di un arancio, perché analizzati uno alla volta e soprattutto fatti crescere uno alla volta non ci portano lontano. Non è qui l'argomento di discutere di economia in profondità, ma io ho la netta impressione che la crisi, che è una crisi di eccesso di debito, troppo debito in giro, nasce dagli squilibri delle economie reali che si erano sviluppate dal 90, perché dal 90 al 2000 noi abbiamo un mondo in cui l'Asia produce moltissimo ma non consuma, l'America consuma più di quello che produce e l'Europa non investe. Ma se guardiamo le due prime cose, a quel punto questo squilibrio genera queste contropartite monetarie enormi, genera i derivati che sono gli strumenti della globalizzazione per compensare le fluttuazioni delle valute, delle materie prime e così via. Quindi è possibile discutere se la crisi finanziaria non abbia una radice reale, oltre che la crisi dell'economia reale non abbia una radice finanziaria. Insomma, anche qui il dottor Jekyll e Mr. Hyde si tengono insieme. Un paio di mesi prima dell'uccisione di Sir Danvers ero uscito per una delle mie avventure. L'indomani mi ridestavo nel letto in preda a strane sensazioni. Mi ero coricato Henry Jekyll e mi risvegliavo Edward Hyde. Come si spiegava? Quell'inspiegabile incidente, quel capovolgimento delle mie precedenti esperienze, sembravano tracciare le lettere della mia condanna. Quella parte di me alla quale avevo il potere di dare corpo, negli ultimi tempi era stata molto esercitata e alimentata. Di recente mi era sembrato come se il corpo di Edward Hyde fosse cresciuto di statura, come se, quando ne assumevo la forma, fossi testimone di un flusso più generoso di sangue e cominciai a intravedere il pericolo che, se la cosa continuava a lungo, l'equilibrio della mia natura potesse esserne alterato permanentemente. La facoltà di mutarmi a piacimento venire a cessare e il carattere di Edward Hyde diventare irrevocabilmente il mio. Tutto quindi sembrava indicare questo, che mi stava lentamente sfuggendo di mano l'originario e migliore me stesso e che mi stavo lentamente incorporando al secondo e peggiore. Sentivo ormai di dover fare la mia scelta fra i due. Preferii l'anziano e scontento dottore circondato da amici, che nutriva oneste speranze, e diedi un addio risoluto alla libertà, alla relativa giovinezza, al passo leggero, ai palpiti intensi e ai piaceri segreti, goduti sotto le sembianze di Edward Hyde. Nella prima parte dei propri cambiamenti è Jekyll che prende la pozione per diventare Hyde. C'è un punto in cui dice che doveva alle volte raddoppiare e triplicare le dosi per arrivare a indurre questa trasformazione. Poi gradualmente diventa Hyde ed è Hyde che deve prendere la pozione per ritornare a Jekyll. Ora, questa è esattamente la storia dell'economia degli ultimi 15 anni. Si comincia con le crisi dalla fine degli anni 90, quando Fabio e io lavoravamo, lui più seriamente di me, al Sole 24 Ore, scrivevamo sulla crisi asiatica. La crisi asiatica viene curata di nuovo da Greenspan, Rubin, il ministro del tesoro americano, Summers, il sottosegretario al tesoro americano, con dosi crescenti di liquidità e non bastava mai. Poi c'è appunto la crisi asiatica, poi la crisi di quel fondo si chiamava Long Term Capital Management, di nuovo liquidità. Poi arriva l'11 settembre, Enron, settembre-ottobre 2001, di nuovo liquidità, poi scappa di mano e allora diventa troppo debito e devi curare l'incontrario. Sembra veramente questo. Erano gli anni in cui, ma potremmo anche andare avanti, in cui quando Domenico Siniscalco mandava un articolo al Sole 24 Ore, io gli telefonavo la sera e gli dicevo, vabbè, il titolo allora è Servono riforme strutturali. questo poteva andare bene per tutti gli articoli che lui scriveva, perché sono 20 anni che servono riforme strutturali e sono 20 anni che in questo paese non si fanno. Sì, difatti la vera domanda non è più che cosa fare, ma è perché non si riesce a farlo. E probabilmente anche lì nel carattere dei nostri, carattere nel senso di carattere, DNA delle nostre società, c'è questa impossibilità di prendere le decisioni che probabilmente sono quelle in parte benefiche rispetto a una data situazione, e si scivola in esiti indesiderati o alla Mr. Hyde. Ma in quell'ufficio di via 20 settembre di Ministro dell'Economia, una volta Ministro del Tesoro, la scrivania di Quintino Sella, no? Ci sono veramente i bottoni, è veramente la stanza dei bottoni, si può schiacciare qualche bottone e cambiare qualcosa? No, i bottoni è pieno, il fatto che non risponde nessuno quando schiacci, quindi no, bottoni è pieno. C'è un famoso ministro, si chiama Colbert, che si presenta davanti al re in Francia e il re gli dice: Monsieur Colbert, donnez-moi de la bonne finance. E lui lo guarda e gli dice: oui, mais vous donnez-moi de la bonne politique. Perché effettivamente non è tecnica la politica economica, assolutamente non è tecnica. E la capacità di interpretare le dinamiche di una società e gradualmente portarla verso l'esito. La politica può piacere o non piacere. Io sono andato a fare il ministro da direttore del tesoro, non sono certo, non ho preso la malattia mangiando la mela, ma sicuramente la capacità di interpretare le società. E quando tiri troppo l'elastico senza riuscire a interpretare fin dove lo puoi fare, poi succedono i fenomeni di rigetto, e li abbiamo visti ancora l'anno scorso. La provvista di Salim, più rinnovata dal lontano primo esperimento, cominciò a scarseggiare. Mandai a farne incetta e preparai la pozione. La bevvi senza che sortisse alcun effetto. Sono convinto che la prima provvista fosse impura e che fosse quella sconosciuta impurità a conferire efficacia alla pozione. È passata quasi una settimana e io sto ora ultimando questa esposizione sotto l'influenza dell'ultima di quelle vecchie polveri. Questa è perciò l'ultima volta che Jekyll può pensare i suoi pensieri o vedere il proprio volto. A questo punto, nell'atto di sigillare la mia confessione, metto fine alla vita dell'infelice Henry Jekyll. E passando dall'età vittoriana al nostro domani, come vede il più prossimo futuro? È vero che il 2014 sarà l'anno della svolta? Come si dice, chi predice il futuro mente anche quando dice la verità. Io non ho idea se sarà la svolta, mi piacerebbe che fosse così, ma francamente non lo so. Io credo che più importante che prevedere oggi sia importante riuscire a gestire con equilibrio questa situazione. Ripeto, nessun miracolo, perché non si sa come farli, ma senz'altro con equilibrio e misura sì, evitando magari in senso hegeliano no gli errori del passato, perché se dopo aver fatto gli eccessi e dopo aver subito una crisi come quella che stiamo vivendo tornassimo agli eccessi senza cercare di farne una sintesi, sarebbe probabilmente un vero peccato. Qualche segno però di eccesso c'è? Ci sono degli eccessi, perché le tentazioni sono molte. Sì, e poi, appunto, come dice il Mr. Hyde, anche il male fa piacere, è una grande tentazione. E se no non esisterebbe. Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Intervista a Domenico Siniscalco di Gianfranco Fabi. Voce di Sergio Leone. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti.